splendente ma bruciata in una volta sola. Per descrivervi mi basta una parola. Oggi sei in TV, domani non ci sei più, che alla fine lo sai pure tu che siete sigarette, sigarette, fate solo fumo, siete sigarette, sigarette, sigarette, di tutti e di nessuno, siete sigarette. Firmi per la fama è mia gara di insulti, io sono il Gran Gala, tu sei una gara di rutti. Gli è riuscito a pochi, mica riesce a tutti, di fare due soldi con due pezzi brutti. Ognuno ha quello che merita, tu hai la pappetta già pronta, cercano la marionetta che a bocca, ti vedo già la bavetta alla bocca. Io dalla gavetta la fetta, la torta, sto tra chi rispetta la conta. Muoviti, vattene in fretta, per te sono il boia che aspetta la forca. La gente vuole da sempre un bel pupo, la major vuole un venduto, tu resti muto, un buco, senza tributo, sai la per riempire un buco. Ci metti solo la faccia, poi dopo per fare una traccia ti serve un tutor. Il mio tocco è velluto, tu fai le cover, game over, non benvenuto. Non lo faccio apposta, rap che schiaccia popstar. Torno sulla scena insieme a gemme, caccia grossa. Botti sulla traccia, c'hai la faccia tosta. Metti le tue sigarette con la ganja nostra. Ora splendete ma bruciate in una volta sola. Per descrivervi mi basta una parola. Oggi sei in TV, domani non ci sei più, che alla fine lo sai pure tu che siete sigarette, sigarette, fate solo fumo, siete sigarette, sigarette, sigarette, di tutti e di nessuno, siete sigarette. Ci avete il filtro che ostruisce, la gente capisce che stai con le pisce, ma quando ti muovi solo su pareti lisce. Disegna un cazzo e stampaci le t-shirt, perché è quello che prendi da quando siamo tornati sulla scena. Con la fedina penale più sporca, la voce più rauca, tagli sulla schiena. Puoi dire quello che ti pare, tranne che lo faccio male. Uccido sempre la traccia, è delitto passionale. Per le strade lo sanno che come rapper sei strano. Duri una canzone a rap e palo. Io c'ho i tatuaggi però puntato sul disco, no? Tu c'hai solo quelli e tra due anni si sbiadiscono. In studio pure quando lei mi chiama, volo alto meridiana. Ogni settimana è come una serie TV americana. Non punto al disco d'oro ma al disco perfetto. Non capisco che hai detto, sei l'ultima del pacchetto. Ora splendete ma bruciate in una volta sola. Per descrivervi mi basta una parola. Oggi sei in TV, domani non ci sei più, che alla fine lo sai pure tu che siete sigarette, sigarette.